Direi proprio che la parola cura è la parola centrale da quando abbiamo iniziato ad affrontare questa pandemia. La crisi della cura credo che sia proprio la quotidianità che tutti stiamo proprio toccando con mano. Una incapacità del sistema economico, sociale, politico odierno di rispondere effettivamente ai nostri bisogni di cura, dal punto di vista della salute, del benessere psicoaffettivo, dal punto di vista delle risposte appunto ai bisogni sociali, ma ben vedere questo vocabolo già denso di significati in questo libro arriva ad espandersi, proprio ad ampliarsi per andare a ripensare ogni tipo di relazione che abbiamo al mondo, anche all'ambiente naturale, alle nostre città, e vederlo attraverso questa lente della cura o dell'incuria è un modo appunto per vedere come questo sistema sia proprio basato, intrinsecamente basato proprio il suo progetto sul rinunciare a prendersi cura delle persone, sul rinunciare a dare risposte in questi termini, per invece guardare a uno sfruttamento delle risorse, a un'appropriazione delle risorse. Crisi della cura quindi è la mancanza di ospedali, di cure sanitarie di fronte a un virus che dilaga, l'assenza di strutture per le persone più fragili dal punto di vista psicologico, dal punto di vista fisico o per età, è l'assenza di risposte a tutti i livelli, e c'è una proposta radicale che il Care Collective fa, ed è appunto di ripensare la politica a tutti i livelli, dall'interindividuale, dalle relazioni interpersonali, a quelle relazioni che globalmente ci tengono tutti incatenati in uno stesso sistema mondo, ripensare la politica a partire dal mettere la cura al centro, il prenderci cura collettivamente, laddove invece l'incuria ha regnato sovrana. Ecco, prima di entrare nel vivo di questa proposta, faccio ancora, come dire, un passo indietro per così descrivere anche un po' la situazione del presente, che il libro fa comunque anche ad esempio nella prefazione di Sara Farris o nella postfazione di Jennifer Guerra. E quando si parla di cura, evidentemente nella nostra società patriarcale si pensa a questioni di genere. Lo abbiamo visto appunto durante la pandemia, come a perdere il lavoro siano state soprattutto donne, ma c'è anche una questione, diciamo così, di razza, cioè una razzializzazione della cura. Sì, entrambe. E la ragione, a ben vedere le cause possono essere ricavate lo analizzano le autrici dal significato etimologico di questa paura. Loro lo riprendono da care, il vocabolo in inglese, che è un termine molto contraddittorio, ambivalente, perché curare, prendersi cura di, ma anche preoccuparsi di qualcosa, è sicuramente un'azione, è probabilmente una delle azioni prime che ci mette in relazione gli uni agli altri, anche attraverso l'affetto, quindi la sfera emotivo-affettiva. Ma allo stesso tempo prendersi cura di qualcun altro, o anche di noi stessi a ben vedere, è qualcosa di molto faticoso, di molto logorante. E un sistema sociale e politico che si è sviluppato nel corso della storia, decidendo sempre di assegnare il lavoro più faticoso e più logorante a soggetti considerati meno degni, inferiori, ha fatto sì che appunto la cura fosse quell'ambito di attività che dovevano ricadere su dei soggetti considerati meno degni, le donne in particolare. Nel corso della storia abbiamo visto come le donne, rispetto a questo rapporto con la cura, i movimenti femministi anche, hanno rinegoziato i limiti, i confini delle donne entro questo lavoro, diciamo contestando l'assegnazione in questa asimmetria di genere, per cui gli uomini dispensati dalla cura e le donne confinate in questo ambito. È però vero anche che una parte di questa lotta è solo parzialmente arrivata a buoni esiti, perché quello che ne deriva è che donne che sono anche razzializzate, che quindi comunque stanno dalla parte svantaggiata della simmetria razziale all'interno, diciamo, del gruppo sociale delle donne, sono coloro che comunque continuano a essere quelle più sfruttate nel fare questo lavoro. Si pensi a chi appunto svolge nei paesi occidentali il lavoro di badanti, di colf, di lavoratrici delle pulizie, di lavoratrici negli ospedali, nelle RSA e così via. Si tratta quindi nel pensare un'altra politica della cura di mettere in discussione queste asimmetrie, ed ecco per questo che tutte le proposte che il Care Collective fa sono partono dalla cura, ma ne propongono una condivisione, collettivizzazione, una nuova versione socializzata, che si tratti appunto sul micro delle famiglie in cui viviamo, attraverso proposte di ripensamento radicale del significato di famiglia, al modo in cui facciamo comunità all'interno dei nostri quartieri, al modo in cui di fatto facciamo comunità sul piano dello Stato-Nazione e anche a livello del sistema mondo, pensare che forme di condivisione della cura possono ribaltare, mettere in discussione e superare le asimmetrie, tanto di genere quanto di razza, ma anche di classe. Certo, ecco, The Care Collective è un collettivo di accademiche e accademici, mi sono scordato di dirlo prima, e il sottotitolo del libro è Per una politica dell'interdipendenza, che già, come dire, entrava in quello che stavi dicendo. In particolare sono quattro gli aspetti, diciamo, presi in considerazione: quello del mutuo soccorso, quello dello spazio pubblico, la condivisione di risorse e la democrazia di prossimità, per immaginare questo cambio di paradigma, no? Sì. Quattro parole chiave che rendono, restituiscono il senso di un'idea, di un concetto di cura ampliato, ripensato. Il tema dell'interdipendenza è fondamentale per capire questo ampliamento del concetto, perché appunto a partire da analizzare quanto la cura reciproca sia il sale delle nostre relazioni, il Care Collective analizza il neoliberismo appunto come sistema dell'incuria sovrana, perché ci spinge a essere individui e individualisti, no? A pensare che dobbiamo sapercela fare sempre da soli, senza mai chiedere aiuto, e ci spinge anche ad essere molto indifferenti rispetto a chi non fa già parte del nostro micro cosmo di relazioni, ad avere incuria, sostanzialmente indifferenza nei confronti delle persone che non ci sono prossime. Pensare di mettere in discussione il neoliberismo in questo libro è pensare di mettere in discussione quest'idea, no? che non fai conti, dicono le Care Collective, che non fai conti col fatto che l'interdipendenza è inaggirabile. Noi siamo interdipendenti, che ci piaccia o meno, ma pensarlo come una sconfitta ci mette in difficoltà, ci porta in affanno. Accettare l'interdipendenza significa pensare anche di avere un rapporto di cura reciproca in cui ognuno, ognuno un po' dà e ognuno un po' riceve. Quindi mutuo soccorso come idea appunto della reciprocità di questa relazione di cura, pensata appunto come pratica che può rimetterci in collegamento. Io sono molto concreta nel riprendendo gli esempi anche del libro, ripensando anche banalmente a come ci comportiamo con i nostri vicini di casa, che spesso nemmeno conosciamo, di cui spesso non conosciamo i bisogni, le difficoltà. Pensare che invece relazioni di cura sono la modalità migliore per entrare in connessione con persone con cui fino ad oggi non ci siamo mai rivolti parole, e pensare appunto di mettere in condivisione i bisogni per trovare soluzioni condivise, soprattutto quando si tratta di essere di convivere un medesimo quartiere, un medesimo palazzo, una medesima scuola, un medesimo luogo di lavoro, un medesimo spazio autogestito. Il mutuo soccorso diventa un sinonimo di cura reciproca nell'interdipendenza, per appunto una messa insieme delle risorse per trovare risposte comuni. E quindi già da questa definizione le ho un po' collegate tutte le questioni, perché certo, lo spazio pubblico diventa necessario come spazio dove potersi incontrare, e questo libro lo sottolinea molto bene. Lo spazio pubblico è qualcosa che ci stanno sottraendo. Incuria è anche il continuare a sottrarre spazi appunto pubblici, beni comuni, che privatizzati diventano spazi di incuria necessariamente. Dove non c'è possibilità di incontro, è difficile chiaramente anche crearlo, no? Questo processo di messa in condivisione delle risorse, delle capacità di cura. E proprio per questo le due cose devono andare insieme: condividere risorse dunque, e democrazia di prossimità significa proprio nel ripensamento totale delle relazioni, la cura reciproca diventa appunto il motore di un altro modo di pensare democrazia, diretta dal basso, in cui ciascuno, ciascuna si pensi fondamentale, soggetto fondamentale del cambiamento e della concretizzazione di alternative, pensata per poter poi su tutte appunto le scale della vita politica per mettere al centro una vera e sostanziale idea di democrazia. Certo, ecco, su questo punto volevo farti un'ultima domanda, perché insomma il libro, come dire, cita anche ad esempio alcune pratiche dal basso che vengono effettuate in diverse zone anche del mondo, per arrivare appunto a quella che è una vera e propria comunità di cura che socializzi appunto la cura. Però in tutto questo ti chiedo se le istituzioni, lo Stato, devono avere un ruolo, oppure, come dire, lo solleviamo e ci arrangiamo per i fatti nostri, visto che fino adesso non ci sta dando molto. La dico in modo provocatorio, ma ovviamente anche per far capire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Certamente, in realtà uno dei capitoli è proprio dedicato al tema dello Stato, e la proposta politica che ne consegue è di ripensare gli stati come stati di cura, mi definiscono. Diciamo che le carenze dello Stato neoliberale non devono e non possono essere sopperiti da una semplice auto-organizzazione dal basso che risolve le problematiche nel micro con le risorse che si hanno. Il micro è piuttosto pensato come la miccia, il motore per innescare processi di rivendicazione verso l'alto. A me sembra molto interessante la riflessione che fanno, e la proposta di attivare i vari livelli, le varie scale della vita politica, proprio perché in questo momento viviamo in un totale scollamento. Lo Stato è quasi in un iperoreano totalmente scollegato da quelle che poi sono le relazioni quotidiane a cui diamo sostanza noi, no? Con le nostre vite. Allora, pensare di attivare democrazia di prossimità, democrazia dal basso, significa cominciare sempre di più a occupare spazio, occupare con proposte politiche concrete, dimostrare che le alternative esistono. Ma si tratta allo stesso tempo, per pensare stati di cura, una messa in discussione di un welfare che è stato totalmente depredato e svuotato, e totalmente subordinato a delle logiche di mercato. Certo. Quindi mettere in collegamento il basso con l'alto è finalizzato in questo libro, nella proposta che si fa, ha una sua messa in discussione. Con una riflessione che trovo molto interessante su quella che è la narrazione ideologica che viene data dall'alto su che cosa sia il welfare, ma lo vediamo anche di recente con i soldi che stanno noi arrivando in Italia con il recovery fund. Sì. L'idea che aiutare dall'alto sia rendere le persone dipendenti dallo Stato, sia renderle fannullone, svogliate, perché appunto laddove lo Stato c'è le persone non si attivano. E è vero esattamente il contrario. In questo libro si fa una ridefinizione profonda del significato di Stato assistenziale, appunto di Stato che non è semplicemente assistenziale, ma che sostiene anche dall'alto i processi di autonomia e indipendenza delle persone, che diversamente, che proprio laddove lo Stato è assente, si ritrovano immobilizzate in situazioni di stasi di difficoltà da cui non riescono ad uscire, dipendenti da una situazione che li mette in difficoltà. Per cui pensare appunto risposte dello Stato che vogliono che significano finanziamenti alla sanità, finanziamenti alla scuola, finanziamenti alla rigenerazione dello spazio pubblico e così via, è ripensato esattamente per nell'accettare l'interdipendenza, per mettere da parte una narrazione ideologica tossica sulla dipendenza delle persone e invece appunto lavorare per un'autonomia nell'interdipendenza. Sappiamo appunto che gli stati questo genere di approccio non ce l'hanno per totale mancanza di volontà politica, ed è lì che pensare di cominciare a prenderci cura di noi veramente dal piccolo, dalle relazioni di prossimità, diventa fondamentale, perché una ricomposizione sociale su altre logiche è fondamentale per mettere in campo delle alternative concrete. Certo.